anni. Oh. Vabbè. Ciao. Questo è con l'apparecchietto che ti stavo dicendo. Con le... Con che vuoi ce lo stai usando? Con le MC60? Beh, aspetta che accendo il... l'amplificatore così. Questo è Lafayette Zeus. Beh, con l'amplificatore va forte. Normale no, ma con l'amplificatore è forte. Infatti, senza... aspetta che... spento, vedi? Non pompa... non pompa niente. Ma di me, ma cosa intendi? Vabbè, perché il microfono non è... non è suo, dai. No, ma ti aumenta la radio, tu come attacchi? Ti aumenta un bel armadio, un bel baro. Oh. Me ne accorgo che c'ho le cuffie. Senza quello, se ti faccio sentire il suo microfonino, Simone Arredi. Piccolino, piccolino, Però, siccome c'ha gli attacchi del di questo microfono, gli ho messo questo. Ma tutti uguali ce li ha, anche la parte elettrica. Ho dovuto invertire dei fili, capito? Se no non andava bene, perché l'ho provato a collegare così, però non faceva nulla, ma quella portante c'era. Ah, ecco. Vabbè, ci aveva solo gli spinotti uguali, poi gli attacchi erano diversi. Esatto, cioè, i canali c'erano, poi ho staccato il filo dei volt. Cavagava, va bene. Mi è piaciuto quel muggine, Luca. Meno ho pesato 2 chili e mezzo di suo muggine. Saranno di Oristano. No, li ha pescati al largo di Valle Luria. Bello, bello veramente. Sono quelli di Cabras, mi sembra, anche le spigole. Siccome spigole grandi non ne ha preso, mi voleva regalare una spigola, là mi ha dato quelle mucine. E così hai fatto, la cosa ti sei fatto anche, l'insalata di polpi. No, le ho messe in freezer, le faccio domenica, così ramolliscono, sono gli scuglio. Ma già non sembravano grandi per essere duri. Sono un chiletto e mezzo. Vabbè, un po' di congelatore già non li fa male, anzi. Forse è fatto arrosto, mica. Subito così erano di lusso. Il muggine, se dice. Lo so, ma io dopo lo faccio arrosto. Io ce l'ho la graticola elettrica, ho fatto anche lo zimino, ma fa sempre di fumo. Adesso ci sono quelle che c'è l'acqua, però il fumo sì, lo fanno comunque. Io c'ho quella che ci mette l'acqua sotto, che c'ha del grasso, e poi non fai altro che buttarci il grasso. Ho fatto lo zimino, non lo so quanto è uscito buono, quello croccante, però ho avuto pazienza, aspettare, perché sennò se lo fai troppo gingomoso è schifoso. L'ho trovato in vendita e me ne sono cubigliato, mi è venuta la Puglia. Hai fatto bene, hai fatto benissimo. E se no devi metterla sotto una griglia, ma sotto una cappa. E io già ce l'ho la cappa elettrica, ma in casa ti fai zibiago, dai. Io quando lo faccio pure in terrazzo, nella veranda. Chiudo la porta e la graticola elettrica la lascio fuori, dai. Adesso anch'io inizio a accendere il fuocherello, perché adesso inizia il caldino, e cucinare a pranzo si fa piacere. Lu, scusami che le uova sono dal fuoco, me le sono dimenticate. Vai, tranquillo. Se lo faccio come la volta che me ne sono andato a letto, allora c'era mia moglie ricoverata perché doveva partorire, quindi ho detto vabbè, mi faccio 2 uova sode e mi faccio un'insalata. Invece poi mi sono mezzo dormito e ho detto me ne vado a letto, non ne voglio. E mi sono sono dimenticato dove va il fuoco. La mattina quando mi sono svegliato lui guida dove era l'uovo, attaccato al suo tutto e il gas è ancora acceso, grazie, guarda. Ho rischiato. Cosa si è rischiato? Ma ci ho messo il microfonino suo già, questo è il suo, Ma la radio normale, ma già va bene. Fare mezzo papperella. Che brutta. No, ma la coppietta vincente è lineare e cos'è, baracchino. Cioè è carino come apparecchio. C'ha qualche funzione, sai, quelle delle ultime generazioni, però come ho visto l'attacco così ho subito presentato a lui e ci stava molto molto meglio. Invece a me mi avrebbe demolito un attacco così. Ti avrebbe? Mi avrebbe, non mi sarebbe piaciuto. Sui baracchini? A me mi piace più l'attacco a 4 che cambi da uno all'altro. Poi qua devi stare anche attento a come connetti. O anche con i cable dello stesso, se non sai che fare le connessioni rischi di fare danni. Qua lo stesso, non è che... Kappa. Lo bruci. Sì. Non avevo mai visto un baracchino con questo attacco qua. Sarà la nuova generazione, dove l'hai preso? Abbiamo fatto uno scambio con un amico. È nuovo. È bellino perché c'ha sia la frequenza che pigiando un tasto ti dà solo il canale se vuoi, capito? Pure la frequenza. È bellino usato così come lo usi tu. Come lo usi tu con lineare va benissimo. Poi c'è anche un bel suono del ricevitore. Aspetta che ti faccio il video un attimo. Vai Gianni! Dove devo andare? Che ti stavo facendo il video. Hola la cipolla. Sta caricando il telefono, dopo lo guardo. Sta caricando che stavo cantando. L'ho scaricato. Lo mando. Tu glielo guardo, dai. Tranquillo. Quando usi quell'app te lo scarica un po'. Queste lampadine smart. Stavo guardando le lampadine smart. Che tramite l'applicazione e poi ti giochi con i colori, la luminosità. Ma lì è già predisposto. No, ho detto, vendono le lampadine smart, la classica lampadina di casa, no? Però c'hanno i colori, poi tramite un'applicazione comandi dal telefono, passi la luminosità, cambi i colori, una figata, tutto nella lampadina, e costano anche poco. Ma lampadine per dove? Per gli apparecchi o per casa? No, per casa. Per casa, lampadine classico attacco i 27 a 220. Quando devi stare a letto la notte, ti metti un ciso fuso. Poi è bello perché li cambi anche i colori, no? Tramite l'applicazione, cambi il colore e sì, ti fai insomma soft. Sì, vabbè, ne vedono anche i cinesi, quelli che cambiano i colori senza applicazione, cambiano da soli. Ma invece qua la puoi cambiare tu col telefono, no? Cambi colore o abbassi la luminosità, capito? Fai giochini. E lì col telecomando, quelli cinesi c'hanno anche il telecomando per comandarli, capito? Io c'ho quella in sala, così, c'ho quella in sala col telecomando, perché la sera poi, quando guardi la TV, abbassi la luminosità, a 12 volte, perché lo sai che c'ho tutto a 12 volte in casa, ed è una figata perché abbassi la luminosità, oppure la fai ballare, le fai tremolare, ma poche funzioni che sono telecomando. Com'è tutto a 12 volte? Il frigorifero come funziona? La lavatrice? No, tutte le luci ho solo, non le prese. Certo, c'è tutto a 12 volte, perché come ti vado a far funzionare la lavatrice? Almeno che abbi qualche sistema da passi da 220 a 12. Troppa roba ci vuole per quello. era da pannelli solari adesso. Già da 5 anni ormai. E luce non ne fa? Quella delle cose sì, delle prese sì. Sì, vabbè, ma ti verranno anche se risuria. Risuriarci perché comunque è un gran risparmio, aspetta, sembra così, ma soprattutto d'inverno che le accendi di presto, le luci, non devi preoccuparti di dimenticarti una luce accesa che non ti ha fatto proprio nulla. E tutto, anche il terrazzo ho fatto. Già è un buon risparmio, Funzionasse tutto così. Ho detto ormai la tecnologia è perché ci è stato attaccato con questo, aspetta che riattacco l'altro che già e quelli da Palma non mi piace di. No, adesso è uscito bene. Quello là non si è più fatto sentire lui. Forse non mi contattasse per come dire, beh, questo video non c'è niente, forse era solo curioso, ovvero il suburbio. Allora ti fanno togliere la roba che non viene nulla, esatto. La gente grazie gli non vale una cicca. Io ce l'ho il mio amico uguale, bello, buono, però poi ora non ti fate. No, non mi ha più contattato. Sì, c'è la gente strana, curiosa e basta, non ha nessun interesse, ti fa togliere, fare, fotografare, cose da me non pigliano. Ma il 99% sono solo per il tempo da giudizio. E vabbè, già non mi domandare un male. Come molti ti scrivo, è disponibile, tu le dici sì, ah mi scusi ho sbagliato, ho mandato per sbaglio, cioè, ma sei deficiente o che cosa? Cioè tu vedi un articolo e digiti se è disponibile e poi mi dici che è sbagliato, cioè mo. Sì, c'è una gente metteccata, strana, non sa come rompere le palle. Ma, no, allora. Vabbè, io ti dirò Luca, tornando al pesce, io a me il pesce non mi piace, non è che ne mangi, però glielo faccio domenica quando viene mio figlio, che lo cucino, io mi mangio il pollo, io sono per i mollusci, i crostacei, frutti di mare. Anche a me piace, qualche volta se te lo faccio in cartuccio sotto la braccia allora te lo mangio magari, ma un sarago così, oppure i pulpi, i calamari, che si roba così, sì, seppie. E anche io sono lo stesso. E l'altra volta ho preso una spigola di 19 chili. Cioè, stavo sperando di prendere una bella per regalartela, invece non le ho preso grandi, ne ho preso due piccole, che è quelle che mi ha dato, le ho viste, poi c'era la spigoletta. E in più quel mugine grande, e vabbè, già mi accontento. Siamo regalato ancora meglio. Ma sempre, perché gli faccio favori, capito? Faccio favori, quando non c'è la macchina, lo accompagno, cose, allora lui per cambiare. La zio Mescio. No, lo Mescio la zio a te. proposito, ma Natalino non senti, le mando i messaggi, non ti rispondi. Capo. Ma per quel frequenzime? No, gli ho stampato il coso per il portatilino, la base, dai, però più larga. È pronto, però non ti rispondi, guarda i messaggi, li ascolta, ma non ti risponde. Ma come quello mio le fa? No, per un portatile, già, per i portatili, i muffin, quella roba lì, no, perché le sue basette sono piccoline, allora gli hanno stampato la base, però con un piano più largo sotto, capito? Sì, ma è grande, mandata la foto. Che colore ne ha fatto? Nero. Anche il mio è nero, eh? I colori che vanno di più sono, adesso stesso sto stampando un box, una scatola in nera lo stesso, in PLA, qui c'ho il multicolore, secondo cosa di stampare, capito, di stare a cambiare la bobina. Ma come rimane il prodotto liquido, com'è? No, a filamento, vendono le bobine di filamento, no? Poi la macchina c'è un estrusore che lo scalda a 200 gradi e scende un filo dove lei, appunto, in base al programma, al file che c'è, si muove e fa crescere il pezzo. Ah, ho capito. Non riuscivo a capacitarmi come poteva essere, se era liquido, se era piastra, se era... non capivo. No, si sente. Andando. No, è un filo, capito, di plastica. C'è anche morbido, se devi fare delle cover, capito. E poi i colori ci sono tutti praticamente, tutti i colori che vuoi fare ci sono in commercio. La bobina è da un chilo, solitamente. Vabbè, io avevo la vernice per la plastica, quindi non mi è costato nulla, ce l'avevo a casa. Ho preso lo spruzzato, perché a me non mi piace di più che è lo stesso colore del telefono, capito? Ah sì, guarda, ti ho mandato il coso come è fatta la bobina. E poi Giovanni, che adesso sta caricando, se no qui stanotte, quando ci abbiamo il salotto, non riesco a entrare. Ti ho mandato anche la foto di quello, di quella base che ha stampato per Natalino. E dove te l'hai piazzata questa stampante? Beh, in un branco. Ah, è piccola, sul ripiano qua, non dà fastidio, a parte il rumore che senti dell'open che va e viene. Ti dà disturbo la radio? No, ma no, come cosa è abbastanza silenziosa, ci sono modelli che fanno un casino. E cos'è, il laser? Laser? No. No, perché solitamente le stampanti laser sono quelle che non fanno accenno, sono silenziose. Ma tu parli stampante di foglio o di che cosa? Di foglio. Ah no, per quelli c'ho la stampante a coso. Si chiama EcoTank, c'ha i serbatoi, una nuova tecnologia di stampante. C'è i serbatoi dove tu prendi l'inchiostro e glielo svuoti dentro, cioè i boccetti, c'ha quattro colori e durano, mi sembra fai 7000 cucchi, una cosa del genere. Ed è comoda perché rispetto alle altre a cartuccia, cazzo, quella là le lasciavi ferme 6 mesi, o d'estate soprattutto, andavi a accendere a farti una fotocopia e non stampavano più, toccava buttare via tutto. Se devi stampare almeno ogni 15 giorni devi stampare qualcosa, mentre con questo modello qua ci stampo anche ogni dopo 6 mesi, lì sempre è perfetta. Non hanno, come ti posso dire, testine, hanno diretto l'inchiostro diretto. Si seccavano gli ugelli di quelle stampate di prima, si seccavano e otturavano l'ugello dove usciva l'inchiostro. Esatto, queste costano, però guarda, è perfetta. Poi vedi, siccome sono trasparenti così dei colori, cioè lo vedi quando si sta consumando, capito? L'ho riempita una volta solo, ce l'ho già 2 anni, mi pare, riempita, a metà erano e li ho riempiti ancora, capito? È comodissimo perché in un attimo riempire, apri lo sportellino e ci svuoti dentro il colore. Ho capito. sì. Ebbero una nuova tecnologia che io non conoscevo. E come può essere appena stilografica o appena normale? Guarda, ti ho fatto. Questa l'ho pagata 208, l'ho pagata. Adesso costeranno qualcosa di meno, credo. Però fa delle fotografie, guarda, spettacolari. Sì, lo so, ma ti consumo un bel inchiostro delle fotografie. Io prima scattavo, lo sai che io facevo fotografia prima, da qualche matrimonio, eccetera. E le sviluppavo così e mamma mia, praticamente ti battivo tutte le cartucce. Vabbè, io uso fogli fotografici per le foto, ma se ti sto dicendo che ce l'ho 2 anni e la uso perché, sai, ogni volta devi fare le fotocopie per qualsiasi cosa, e guarda, non ha consumato nulla, è arrivata a metà, l'avevo di nuovo riempita, adesso sono tutti pieni i serbatoi, consuma nulla, ha fatto foto, ma guarda, ti ho mandato la foto di come è fatto. È una figata qua. E anch'io usavo la carta fotografica, quella lucida. Usavo anch'io quella. Solo che di inchiostro ce ne volevo un bel per fare le fotografie. Quando cominciavo a sviluppare 12-13 fotografie, l'inchiostro ce ne volevo. E vabbè, adesso le tecnologie sono diverse. Guarda, sto mandando la foto dell'inchiostro che... Tu pensi che 4 di questi costano una ventina di euro, di questi serbatoi qua, no. Tutte e 4. Guarda, tu adesso quando ti guarderai la foto, questa è l'originale ancora, pensa tu, l'originale, c'hanno un boccetto, no? Non fa altro che girarlo nel serbatoio, lo incastri e e cade da solo in pratica. Adesso vado a vedere se è carico il telefono. Sì, mi sento un minuto. Basta lì, ma i suoni rispondono. Oh Luca, scusami che stavo rispondendo a un amico. Ehi, ho cambiato il radio, sto usando l'altra, quella grande. Questa è una sai cosa. Ah no, ma anche quella là già si difende bene, per essere così piccolino. Sì, te l'ho detto, va benissimo. Magari la timbrica sicuramente, perché poi con l'amplificatore cambia l'audio probabilmente. Allora, cosa qui tutto a posto. Ok, diamo un po' di cose. Chiara. Per me li hai visti i video già? Sì, ti ho anche risposto. Ma hai visto come fa tutto lì, no? C'è sempre da fare comunque il progetto, chiamiamolo così, di quello che devi costruire, quello sì, si usano diversi programmi, capito? Non è che prendi e fa lì. Io ho capito. Beh certo, difficoltà ce ne sono tante. Misure, mica misure, parametri. E così che a pescare neanche di notte, un paio d'ore, non ti è mai, adesso per dire, a calamari, non ti è salito in mente di andarci, no? No, non ce n'è proprio voglia. La passione proprio se n'è andata, così è già. Non è quello lì, non è che sono a luglio, se va dall'umidità è peggio. E quello sì. Ti trovi così di punto in bianco. Prima ci andavi sempre, no? Sì, prima ero sempre lì, come ci volavo, andavo a pescare, tutti giù. Ma poi comunque tipo il surf casting era diventata solo una spesa, perché era tutto poi aumentato, infatti io poi non ci sono più andato neanche per quello. Aspetta, ne dovrei andare a casa senza nulla, a voi la maggior parte, soldi in esca, benzina, vabbè, meglio, si possono prendere i granchietti, prendi una sardina, la leghi a una canna, la metti nella battigia la sera, quando stai imbrunendo ci attaccano tutti i granchietti, con i granchietti si pesca bene. E ma sto pigliando in nuda, no, sto pigliando in nuda. Certi, vedi certi video, boh, spigoloni, lecce da terra, finocchio, tutto musso, altro che. Vabbè, comunque, quel mio amico già pesca sempre, lui mette palambi, ti ride, pesca sia in fiume che in mare, per cui... Ma conto farlo per passione, conto farlo per lavoro già, dai. Ma lui non lo fa per lavoro, lo fa, cioè, diciamo che ci va e poi fa anche altri lavori, canta, fa altre cose, dai. Che avanti, ma se butta le reti, palamiti, vuol dire lo va di battaglia. Hai visto quello là che l'hanno pizzicato, non so quante ceste di ricci ce l'aveva? Oh, yeah. No, dove? Sul giornale c'era, in una zona protetta, in Marghera. Se era in Sardegna sarebbe stato capocaccia per la giornalista. In Sardegna, non mi ricordo che zona dove l'hanno pizzicato. Ma la gente per sopravvivere, hai visto i trattori, i casino che stanno facendo? Ma perché arriva a un punto che poi, come appunto dicevano, dice non riesci più a arrivare a fine mese, vai al negozio e ti parte la giornata per mangiare solo quei due giorni al massimo. E va ragione, dice, se mangiamo non riusciamo a pagare. Vabbè. Chica Mironi, è un capo di Mironi. Per carità. Sì, se li vogliono fanno qualche agguato. Giustamente loro già non si rendono conto, per me è così, non si rendono conto quando vanno, anche se ci vanno loro in negozio, con i soldi che hanno, non ci fanno caso neanche quando arrivano alla cassa, ma la gente comune sì. Lo sanno, la roba è cara, sanno tutto, capito? Lo sanno, non ti preoccupare, già lo sanno. Se si rendono conto, sono bastardi e basta, pensano a loro saccucci e buffi. Esatto, hai detto bene, pensano solo a loro. E poi che cosa? Intanto ognuno che entra poi fa sempre le stesse cose, promette, ma sanno benissimo che non riusciranno mai a sollevare l'economia. Gli stipendi saranno sempre quelli, perché se aumentano gli stipendi devono aumentare il prodotto. E siamo punti a capo. Lo so, è così. Speriamo che adesso con le votazioni votino chi lo merita. Ci vuole qualcuno che, non lo so, che si inventi qualcosa, che tolgano le tasse, però ti dicono ma ci sono gli evasori, allora siamo punti a capo. E allora? E così è. No, ci vogliono persone che catapultino tutto, che rinnovino tutta la storia del lavoro, tutto quanto, è tutto da rivedere. Certo che con questa intelligenza artificiale non è che si vada avanti, che il lavoro si peggiora. Perché nella fabbrica hanno messo tanti di quei robot, ma perché? Perché loro pensano alla loro tasca. Se Gianni in un'ora mi fa 10 prodotti e li devo dare 2.000 euro al mese, 4.000 euro al mese con tutte le tasse, tutte le contributi eccetera, e un robot me ne sforna migliaia, e loro pensano a quello, non mica pensano a Gianni o a Luca, pensano solo a produrre in buco. E poi anche l'importazione sta incidendo tantissimo, noi possiamo avere tutto e nonostante compriamo, i grandi supermercati comprano da fuori, e anche quella la rovina. Ma non l'hai visto che la roba nostra in Francia, per dire, non la bulle, hanno bloccato l'autotreno e gli hanno buttato tutta la roba nella strada, la roba italiana l'hanno buttata già nella strada perché non vogliono prodotti di fuori. E a fare di bene. No, capito, la nostra roba va fuori, noi compriamo quella di che viene da fuori, cioè, ma cioè, è un controsenso allucinante, come per il latte, la stessa cosa. Cioè tu ne compri il latte Arborea, devi per forza comprare il latte che costa poco, che viene da fuori, perché sennò comunque con il latte o la pasta e quello devi arrivare comunque a fine mese. A chi non piacerebbe comprare il prodotto nostrano? Io compro Arborea. Quando è in cosa, come si chiama, in offerta, per dire adesso se tu vai da Italia l'Arborea mi pare che costa 90 centesimi o 95, 94 forse, nemmeno un euro. Quando è così lo compro anch'io, sì, caspita. Meno male che la Conad mette sempre delle offerte comunque. Adesso domani c'è una Craio a vedere se c'è. Ogni tanto a prendere il pesce lì. Vai da Italy, ci sono le arance a 75 centesimi in offerta. Ma se tu assaggi queste arance sono dolcissime, sono più piccole delle altre, ma sono sarde, sono dolci, dolci, dolci, di Muravera. Dall'Intas? All'Intas non è il meccanico. Cosa l'Intas? Io cosa ti ho detto? Vitas ti ho detto. Ditali ti ho detto, non Vitas. Ditali. Ditali è quel supermercato che c'è di fronte alla rotatura di vicino a casa. Ah, ti ho preso l'Intas. E io pensavo di aver fatto un affare a prendere la 99 centesimi le arance al quadrato, che c'era un ragazzo che le vede sul camioncino, e invece lì sono a 75 e ne ho preso un bustone pieno, sono stati 5 kg e ne ho preso. Poi le devi consumare, caspita, è quello, anche a me piacciono un sacco, banane, aranci, però come, oh yeah. Ma io ne mangio due a pasto di arance, sempre. Guarda, tutto che puoi toccare, ma non la frutta e la verdura. Quella la mangio come. La frutta cerco di evitarla. Zuccheri, cerco di evitarle quelle. Sì, ascolta, quando tu ne mangi due di quelle piccole è come se mangiassi un arancio. Vedi la dottoressa, mi ha dove se manda in diver. L'ascensore già non te l'hai più messo? No. Capito, mia mamma mi ha avvisato Anzura, mancano due giorni e va bene. No, me l'ha richiesto il dottore se lo volevo mettere, ho detto di no perché d'inverno mi causa problemi con i maglioni, con le camicie, con tutto quanto, mi dà fastidio. Io perché mi metto il cerotto sopra? Guarda, mi sono agganciato una voce a Giomesi Frassa, alla finestra mi sono agganciato. Da quando metto il cerotto, guarda, non ho più paura di nulla, non ti si aggancia niente, camicia, golfi, è molto molto comodo. Io metto il cerotto anche per quando ti fai la doccia, no? Stai più tranquillo, nonostante lui sia fatto apposta, però io sto più tranquillo già. Perché il cerotto, essendo, rimane aerodinamico, dai, nella pelle. Ho capito. No, ma io dico, per misurartela, quando c'è maglioni, come fai? Ma li oltrepassa i maglioni, la misurazione, ce la fai a farla con i maglioni addosso? Certo, io cosa faccio? Perché mi tolgo il golfo, il giubbotto, per esempio, per misurarla. E passa tranquilla, tranquilla. Ho fatto anche la differenza con e senza niente e misura alla stessa maniera. No, è una comodità già. Sì, vabbè. Un giorno, quando siamo a verticale, ti faccio un discorso. Vedrai che mi dai ragione. E altra cosa è che ti avvisa, capito, glucosio basso, alto, comunque sia, no? Io mi sono trovato subito bene, me lo tengo. Faccio 15 giorni in un braccio, 15 nell'altro. Ehi, vabbè. Io l'ho portato per 15 giorni, poi l'ho tolto. Mi è scaduta anche l'app, ogni volta che ti scala devi rifare tutto da capo, un casino. Io invece l'app non ne ho, ho il suo sensore, il suo macchinino, lo avvicino e lui misura, non devi fare nulla. Ma il mio dottore mi ha fatto mettere l'app perché mi arrivano direttamente le misurazioni a lui, capito? Io ci ho provato, anzi veramente ci hanno provato là quando mi stavano spiegando come funzionava e dice no, questo telefono non va bene. Dice, non è l'unico, sono tantissimi telefoni che purtroppo non accettano questa applicazione. Ne diamo il pronti. Allora dice, la deve misurare sempre, tante volte al giorno. Capita, già detto, boh. Dice anche 20 volte al giorno. Sì, quando me ne ammento. Ma io quando ce l'avevo glielo misuravo spesso, ce l'avevo sempre in massa, quello glielo l'ho fatto, perché massa nel senso normale, dai. 120, 110, 98, sempre così ce l'avevo, perché avevo paura che magari il dottore vedesse che ho mangiato qualcosa che dovevo mangiare, invece la macchina viraggio posso mangiare tutto. Tu fate dare macchinino invece, intanto poi quando vai a loro lo attaccano al computer, se lo scaricano, capito? A me mi ha detto, se vuole mandarmele via email, me le manda via email, se no le controlliamo quando viene a visita. Ho capito. Ma a te te l'hanno fatto vedere come si faceva? Sì, non è una cazzata farlo. Chi su malloppo che ti dà l'asino, devi togli, aprire, mettere il sensore dentro quell'affare là, poi con quel palo braccio e si attacca la giura, poi c'è rotto sopra e via andare. E a me me l'ha fatto l'infermiera professionale. Lì c'è l'infermiera e la diabetologa dove vado io a San Camillo. Adesso ne verranno altri a San Camillo sicuramente, perché uno è andato in pensione dei dottori che c'erano lì al centro di abito. Io c'avevo la Scardaccio, quella lì è andata in pensione e allora mi hanno dato questo. No, ma sono bravissime, questa è bravissima, veramente, guarda, una dottoressa di lusso, brava, brava veramente. Mamma mia, la Scardaccio non si ricordava la roba da una volta all'altra, buh. Perché non so cosa mi diceva, di fare lavori di più, che così almeno non pensavo a mangiare. Poi c'è la mia moglie, un giorno le ha detto, signora, ti faccio fare di più l'amore, così almeno non mangio. Ma se i bei grigi va via. A me mi aveva detto che mi bevevo minimo una cassa di birra al giorno, mi ha fatto un ricoverare per i trigliceridi alti. Ha detto, ma se non bevo io? Ma non è possibile, adesso la faccio ricoverare, pronti? Come ti ho trattato gli uccidi a ripidare, mi dicevo tutto, ma cosa è venuto a fare qua lì? E lo dica alla dottoressa, secondo lei io sono astemio praticamente e secondo lei mi bevo una cassa di birra al giorno. Vabbè, era un campo per la mongolfiera, io ce l'avevo da quando era San Pietro addirittura. Vai tu, rompi i catturi, va, per non dire altro. Questo è di lusso, già, questo è veramente bravo. La Scardaccio era praticamente la sorella di un mio collega, che adesso lui, Giannavino, è a Cagliari che sta lavorando, a fare alla Grindi, roba del genere. Grindi le navi? No, la Grindi autotrasporti, lui era in ufficio. Ah, ho capito. Era in ufficio da lui, poi ha trovato questo lavoro lì e ha dato lì. E poi c'era il dottor Lascio, che si chiamava, un altro me. Credo che c'era anche il padre, cosa qua, non mi viene il nome. Pacifico. Pacifico. Poi c'è quell'altra, non lo so se c'è ancora, c'è quell'altra che il primo periodo che mi hanno dato l'insulina da fare, mi è salita la glicemia e sono andato lì per vedere cosa dovevo fare perché mi sono preoccupato. Detto, lei non è che può venire che ogni volta che si sale la glicemia, lei ce la deve regolare da sola, incazzata, perché non c'era il mio dottore, lei si pronto soccorso, la stava facendo lì, no? E gli ho detto, guardi che io l'insulina la sto facendo due giorni e non so come funzioni la cosa, non è che me l'avete spiegato tutto quanto. E che allora glielo dico io, d'ora in poi quando mi sale l'insulina aumenta di 5 unità, a 5 a 5, prima prova 5, guardi, si è abbassata, va bene, se ne fa altra. Prima però io sono imbutti da a pastiglie, ormai mi davo 6 adi. E io invece adesso prendo pastiglie e insulina, tutti faccio 4 insuline e poi prendo le pastiglie, me la metto formina che quasi un bel male. Io prendo, insulina e faccio e le due pastiglie, sì, tipo metformina e la cosa. Erbescio, babba via, la capsula con quelle morbide trasparenti. Perché cos'è quella lì? Per il fegato. No, io quella lì no. Io la prendo per la pressione, perché c'è un po' di tachicardia, il cardiologo mi ha dato queste pastiglie per la pressione. E praticamente ne prendevo due, una me l'ha tolta, ha detto sei troppo giovane, questa qua praticamente non ti fa più raggiungere l'erezione, quindi te la tolgo, me l'ha tolta perché ha detto che sì, che un anziano va bene, ma quando è giovane come lei non va bene andare queste pastiglie. Si chiamavano Lubifo. Grazie a Dio per il cuore non ci sono mai stati problemi. E beh, da una parte ti davano quella, dall'altra il Viagra. No, queste qua ti rallentano il flusso sanguigno, capito? No, ma io non è che avessi problemi al cuore, io. È che soffrivo di tachicardia, quando avevo qualche problema, al lavoro e cose del genere mi veniva questa agitazione, capito? Questa tachicardia, allora abbiamo dato queste pastiglie. La vita, così. No, le prendo, però l'estate la metà. L'estate non la prendo intera, la prendo a metà. Oh, dopo diventi schiavo, ogni volta dei bacilli, per carità. E non bisogna convivere, ci va di più. Più cresciamo e più abbiamo roba da prendere. Poi diceva il signore farmaceutico che la prossima volta si porterà il carrellino della spesa, che se no non ci sta a tutto, e che teniamo già di bacilli. Sì, è vero. Purtroppo. Ascolta, ma a te ti è mai successo di trovare degli aghi che sono intasati, che ti tocca bucarti due o tre volte? Sì, andiamo, vai a premere tutto che balla, è con l'ago nuovo, boh. Sì, più di una volta. Adesso io me li ho fatti cambiare, questi picchi indolor non me l'hanno fatto questa volta. Però oggi picchi indolor non ne aveva, me ne ha dato un'altra marca ancora. Se me lo fanno le porti, mi ha detto che diabetologo, se fanno così di portarli indietro e farteli cambiare. Ma uno ogni tanto capita, già, non è sempre. Ho capito, non è sempre, però io ne trovo anche 4-5 volte così, capito? Aspetta, che marca sono i miei? E questi sono quelli della PIC. Insulin 320 Advanced c'è scritto nel tappeto. E quelli della PIC sono buoni, dentro di uno proprio ogni tanto, ma ci sono un'altra marca che sarebbe quello che c'è la scatola verde e bianca, non so se ne è mai preso. E questi sono della PIC, sì. Ma già sono buoni questi, capita per ogni tanto, di questi che qualcuno è intasato. Ho chiuso, fatti male magari. Non passa, intasato in qualche maniera, intasato perché non passa l'insulina. A volte capita, per esempio, io lo stesso ago lo uso anche tre volte, capito? Anche a ogni puntura me lo cambio. Però è capitato, vorrei dire, la seconda volta che è rimasto chiuso, magari sangue secco. Tre volte, ma tu sei vacco, non sai cosa succede. Me lo raccomanda sempre il dottore di rinunciarlo due o tre volte, perché si formano dei frammenti, microframmenti che ti vanno dentro la carne quando tu lo usi tante volte. Tre volte massimo lo uso, lo stesso ago. Ma se ne vuoi che te li do, ne ho io, ma non usare tre volte, Luca, che fa male. No, ne ho di aghi, ho già. Ho sempre fatto così, sì, il primo periodo cambiavo tutte le cose, tutte le punture. Ma anche convincere non è perfetta, ma lo trovi due o tre volte, capito? Beh, a me a volte mi si vigere, sai che c'hanno il coso fino, l'ago è fino. E se no più di una voce mi bugno lo dindo. E ha preso il buttarlo in via, sì, anche a me è successo, mi sfugge, mi sta sfuggendo, tacca e mi pugno lì. Senti quanto fa male però. Sì, fa male, invece quando ti pugno ti va di lui. Sai perché non te lo aspetti in quel momento e ti punge e senti dolore. o abbiamo dei punti magari che sono più dolorosi. Decidono adesso di ricadi quando ti pongo al centro diabetici, cazzo, ma con macchinino vani, con l'ago ti bucano, la scardaccia, con l'ago ti bucava il dito. Non lo so, sì. Anche a me l'hanno fatto così. Comunque sono arrivate le macchinette nuove, sono un mobilie. Stavo cercando di farmela andare una metà, ma lì non ce l'ha, sì, ma è... non è che sta funzionando bene, e ce la punti, la controlliamo, se va male vediamo con la nuova. Invece non l'ho mai portata. Ah, ogni tanto me la misuro, però con lo stesso macchinino, c'hanno le strisce, lo stesso macchinino del sensore. Ma le strisce te le danno compreso ogni volta col sensore? Sì, ogni volta che ritiro il sensore, sì. Ogni 3 mesi li ritiro i sensori. Ah, ogni 3 mesi? E quanti te ne danno, scusa? Se dovrebbero dare 2, 4, 6. Considera che lo cambi ogni 15 giorni, loro si fanno il calcolo. Capito? Ho capito. Vabbè, ci sono i pro e contro di 3 cose. Purtroppo... non posso dire niente qua. No, io mi trovo bene col sensore già, non dà fastidio né niente. Poi ripeto, col cerotto, anche se ti sbatti da qualche parte, o quando ti fa la doccia, è una sicurezza in più. E cosa ce ne faccio? Abbiamo convivere ormai da 20 anni già. Sì, 20 anni. Io sono 25. Purtroppo. Qua a casa non c'è nessuno diabetico, nessuno. Ma a casa c'è la mamma. Mamma dopo il parto ha avuto il diabete e non l'è mai passato. Di solito ti passa il diabete da parto, no? E quello da gestazione. Invece lei non l'è mai passato. Ha continuato e ce l'ha dovuto curare tutta la vita. E a 72 anni ce n'è andata. Una vita facendo insulina, così? Ne faceva 4, ma... Vedi, si chiede il tuo genetico. Ah, non lo so se sia una cosa genetica, Non penso però che sia genetico. Forse non è non è trasmettibile, dai. Poi te lo chiedono, vedi, anche te lo chiedono, ma lì a parenti sicuramente te l'avranno chiesto anche a te. A me oggi tu no, mia nonna gli è venuta vecchiaia, ma quello di vecchiaia però, il diabete lì. No, mamma mi faceva fare la curva da carico ogni anno. Ogni anno andavo al centro diabetico e mi facevano la curva da carico per vedere se ero... non me l'hanno mai trovato. Me l'ha trovato la Cecchi, il medico del lavoro. Mi ha fatto fare le analisi, mi ha mandato una busta urgente, che è il esercizio, di presentarmi subito dal mio dottore con le analisi, c'era scritto. C'erano le analisi dentro, siccome c'è un mio cognato che è analista chimica all'ospedale, che è quello che fa le analisi al sangue, alle urine, eccetera. L'ho chiamato e mi ha detto, già mettiti il cuore in pace, sei diabetico. Io ho scoperto tramite una donazione, c'era mia nonna ricoverata e serviva sangue e ho donato il sangue, no? E subito la lettera urgente di andare, dal giorno. Cioè per 25 anni ho vissuto, è una malattia che se la curi, sì, è bastardo perché è una malattia chino, ti attacca battuto di colpo. Io già sono operato a tutti e due gli occhi, tutte e due le gambe, chi più ne ha più ne metta. Siamo un po' diversi. Sì, a tutti e due gli occhi io sono stato fatto in cataratta. No, io ero strabico, da piccolino, mi hanno operato però. No, ma cataratta è un'altra cosa, vedi tutto qua trannebbiato, tu non vedi un cacchio, di notte quando ti puntano i fari vedi l'effetto cross screen, non so se tu sai cos'è, l'effetto stella. Già non so gli effetti. Quelli lì ormai al laser, assai dura questa operazione, no? A me non me l'hanno fatta al laser, a me me l'hanno fatti tutti e due operando. Uno l'ho fatto al policlinico, me l'ha fatto quel dottor Giovanni, come si chiamava? Petretto, quello che aveva la arrestato, che era andato al Gabibbo, che praticamente faceva risultare che operava, invece non li operava, infatti si prendeva 1500 euro a paziente. Perché ti vai? Ma è già tanti anni ormai che li fanno al laser. Io tanti anni che li ho fatti, non è che adesso, tanti anni che l'ho fatta l'operazione, però c'ho 10-10. È fastidioso, la cataratta, no? È un velo che ti si forma. Fastidiosa, ti fa vedere male tutto opaco, vedi? Sembra che ci sia la nebbia di giorno. Di giorno tu vedi tutto annebbiato, tutto opaco. No, non è da tenere, no, è una cosa. Avevo comprato gli occhiali per regolarmi nella guida di notte, perché io non lo volevo dire anche per il lavoro, perché se potevo prendere il lavoro avevo paura. Prima ho fatto l'occhio, poi ho fatto l'altro. La tempistica è lunga pure, è così, così so che è anche un anno, due anni. Di che cosa? Per operarsi. No, ci sono delle prassi, se paghi 100 euro, guarda, il dottore ti visita dopo una settimana, ti chiama, però devi pagare. Vabbè, 100 euro già, però non aspetti un anno, che mezzo mi ha resettato due anni che la chiamassero. A me mi hanno spiegato questa cosa qua, ho chiesto all'amico che aveva il cognato che faceva questo, che faceva l'oculista, mi ha detto fai questa strada qua perché è l'unica per operarti subito, e ti opera lui direttamente. E così ho fatto. Ho dato 100 euro, ho fatto la visita, dopo una settimana me l'ho chiamato. E ci vedevi da subito? All'inizio ti mettono una benda e se tu scopri l'occhio vedi un po' rosso, l'effetto rossiccio. Poi praticamente dopo qualche giorno cominci a vedere bene. Però poi passa. Perché dopo una ciacchettola che viene, dice questa cosa? No, non è detto. Il diabete mi te la fa venire, detto chiaramente. Poi chi lo fa normalmente, che a chi viene normalmente viene una certa età, però il diabete anche a giovani, anche ai ragazzi giovani. Sai quanti eravamo il giorno che sono andato a operare? Mi stavamo aspettando che gli arrivasse l'attrezzatura per operarci. Tutti stavano ad aspetto, aspettando per operarci, perché l'attrezzatura gli arrivava in giornata. Capito? Ma so che la due eri già. È un po' normale che non si... cioè, mi hanno fatto delle iniezioni nell'occhio, non lo so io. Ti entrano l'ago sotto l'occhio, prima da una parte e poi dall'altra per farti l'anestesia. Mamma mia quanto fa male lì. Te lo fanno per farti l'anestesia, poi tu senti tutto quanto, perché te la fanno locale e basta. Senti tutto, vedi tutto. Quando mi hanno operato al ginocchio, perché ho avuto anche il ginocchio operato, il menisco, che ho fatto una caduta dal furgone e ci sono caduto dentro un bis. E praticamente mi sono rotto il menisco e mi hanno fatto l'operazione e praticamente ti fanno un buco e ti infilano questa telecamerina con una pinza che ti toglie tutti i pezzi che si sono staccati del menisco, che è tipo una spugna, no? Che fa da ammortizzatore tra un osso e l'altro. E praticamente io stavo guardando tutta l'operazione nel monitor, perché praticamente c'è un monitor grande, mentre mi operavano guardavo l'operazione. A un certo punto hanno messo un telo su questo monitor e lì sono svenuto. Ho chiamato, sto svenendo, qui sono arrivati gli animatori, mi hanno rianimato, cosa? Perché ho detto, si stanno tappando il monitor perché non devo vedere qualcosa di brutto, mi ho immaginato quello. E lo sai cosa hanno fatto? Con un martello e uno scalpellino mi hanno bucato l'osso, perché poi gliel'ho chiesto al dottore che cos'era quel rumore, lui mi ha detto perché noi buchiamo l'osso per far uscire il liquido, con uno scalpellino e un martello normale. I carpentieri, va bene, dai. Lì sono svenuto, perché come mi hanno tappato il monito io. Allora, già mi hanno fatto una sorpresa, perché c'era questo amico mio che se la faceva con un'infermiera che lavorava lì, se l'operatore, e deve essere gliel'ha detto che io dovevo andare, però non sapevo nulla. Questa infermiera comincia a carezzarmi la faccia e a dirmi: ma sei tranquillo, ti devo fare l'anestesia, sei tranquillo, e accarezzava, e dovevo aggiungere morchiato, mi fate di operare, meglio rimorchiato, e questa qua mi accarezzava, continuava a accarezzare, dice: ma che cosa fai, dimmi che cosa fai, mentre c'avevo il flebo del coso dell'anestesia attaccato, no? Dimmi cosa fai, mi stavo raccontando tutto quello che facevo, cosa, tu come ci avevo dormito in chi. Ah, si t'hanno svegliato a lingua, ossia. E allora poi il giorno dopo, quando sono uscito da lei, il giorno dopo, perché mi hanno fatto andare in ospedale alla sera, mi hanno fatto andare via a casa, io me ne sono tornato con le stampelle, capito? Camminavo già, solo che come sono andato a vedere a letto stavo per svenire, quindi mi ha fatto ricoricare. E praticamente dopo un po' me ne sono andato via con le stampelle. Camminavo già con le stampelle dopo l'operazione, immaginati. E quando stavo uscendo ho trovato una coppia che si stavano mezzo attaccando. E io lo stavo raccontando a Liliana cosa avevano fatto col martello. E quella signora si dice: ah, ha visto, glielo dica lei che cosa gli hanno fatto, perché mio marito non ci crede che era col martello e col picchetto che ci hanno bucato l'osso. E ho detto: no, non è proprio così, me l'ha detto il dottore a me. Ah, boh, che strano, mi sembrava così strano, si stavano così attaccando perché lui non ci credeva. Ma se non l'operazione che fate con il robot oggi, che è da remoto, mamma mia, io non mi sarei tanto fidato di farmi toccare da un robot. Precisissimo, lo fanno al policlinico, qui è un'equipe che arriva dal continente e fanno proprio l'operazione all'anca, infatti lo dovevano fare a me queste equipe qua con robot. Però cosa è successo? Che a me mi hanno messo in coso, in aspettativa, in riserva, diciamo. Se c'era qualcuno che si rifiutava andavo io. Invece non si è rifiutato nessuno, hanno continuato, hanno operato con robot quelli che c'erano prima, poi a me mi ha operato l'equipe di Sassari che sono bravissimi lo stesso, al policlinico sono mai bravi i dottori, sono molto molto bravi. Ma cosa ti ho trovato io che avevo portato mia suocera? Cosa avevi fatto lì, che eri in barella? Chi se ne ammetta? Dove mi hai visto tu? Lì al policlinico. Chi era in barella? Se c'era nei bucendi non so dove. Mi sembra c'era, forse c'era tuo figlio il giorno anche. C'era l'operatura, mi stavano portando. È la volta che mi hanno operato. Sì, tu fai di tutto per non cercartele le cose, però ti vieni nei buchi. C'è questo ragazzo che sto seguendo su internet di Oristano, che ha la leucemia mieloide, che lo sto seguendo già da un bel po', da un bel pezzo, adesso che hanno fatto il trapianto del midollo. Cazzo, quello è mortale in pratica. No, adesso vabbè, lo so perché mio cognato è morto a 25 anni di leucemia, era sposato da un anno con mia sorella, quindi immaginati tu. E mia sorella tra l'altro ha partorito, quando a lui l'hanno portato a Parigi per fare la cura. Lei partorendo e lui portato a Parigi per la leucemia. Impiantano cellule staminali, non so cosa fanno. No, adesso fanno proprio il trapianto del midollo, ma deve essere compatibile, deve essere uno della famiglia, capito? Che te lo dà, o tuo fratello, o tuo padre, o tua madre, deve essere dello stesso, è tipo un gruppo sanguigno, dello stesso gruppo, capito? Deve essere compatibile con tuo. Ti fanno proprio il trapianto, tolgono uno e mettono l'altro. E poi dopo sino una settimana, poi dopo una settimana puoi stare tranquillo. Sì che ti sei operato due o tre volte tu, no? Sì, non me ne metto più che mi sono operato. Allora mi sono operato a due calazzi nell'occhio. Calazzi lo sai cos'è? No, ma dico operazioni tipo quella delle gambe così. Allora ho avuto 2, 3 e 5 almeno, poi quei due calazzi che mi hanno tolto dall'occhio. dite. È ovvio di darti la missione a voi. Sì, ma tanto la bisciola di vecchiaia, non me ne vorremmo dare che se mi spetta. Ormai dovresti esserci, no? No, io a me mi aspettavo già da quel dì, a me mi aspettavo 5 anni prima, perché ho 80% di invalidità, e mi aspettavo 5 anni prima di quando aspetta gli altri. Io ho fatto 3 volte la domanda, la terza volta che con l'avvocato me l'hanno respinta di nuovo. E perché, scusa? Non lo scrivono il motivo, se questo signore al televisore canale 5 dopo il telegiornale c'era questo signore che rispettava la pensione, non l'avevano data, era andata addirittura al Presidente della Repubblica. Adesso il Presidente della Repubblica deve fare revisionare tutto quanto per vedere perché non la danno, perché non gli scrivono mai il motivo. Vabbè. Se fanno quello che le piace, capito? Sono dei bastardi, prima li mettevi l'avvocato, si cagavano sotto e te la davano, capito? Pensavi come mai, io dopo la terza volta gli ho messo l'avvocato e me l'hanno data subito, prima non me ne volevano dare. E mi aspettava perché avevo già compiuto l'età, avevo fatto gli anni giusti, quindi non capisco il perché non me la volessero dare. Non sai quello che state di fare di dare, ma hai detto, intanto mi bruciano sempre. Se hanno fatto andare un'amica mia che c'era la sclerosi multipla, in più c'è un tumore, cosa gli passa la sclerosi multipla, il tumore, io gli auguro che gli passi, ma non è così facile. Eppure l'hanno fatto andare lì, il marito era incazzato, ho detto tu la prossima volta le chiami i carabinieri, li fai venire loro lì, perché lei non si può muovere, con l'ambulanza mi l'ho dovuta portare. Fanno schifo, chiamavano a revisione bambini nati malati, ma cosa pensi che il subizzino, vedi che è tutto intubato da quando è nato, cosa pensi che un miracolo lo faccia guarire? No, lo fanno per prassi, non è una futilità. C'è un amico mio ha dato per fare praticamente, lui c'aveva il 65% di invalidità, ha fatto un ricorso come aggravamento e gli hanno detto che prendeva troppo, le l'hanno abbassato, invece che alzare le l'hanno abbassato l'invalidità. Se molte non lo fanno l'aggravamento perché a uno gliel'hanno presa, anche quella che c'aveva gliel'hanno preso. Scusate che ne va l'aggravamento. Fanno per scoraggiare, di modo che tu non pretendi più di avere di più di quello che hai, capito? Perché lo fanno, ti scoraggiano così. E saluto tutte le prossime, grazie delle 4 chiacchiere. E ai, va bene. Ho acceso, ho detto vediamo se c'è niente, se no continuo a cantare, tanto qua non c'è mai nessuno. Magari saranno i 50 con gli orecchi di porco, ma non entro. Beh, sicuramente, importante ascoltare. Cappagatto, e vabbè, così poi buoni, ce la vinda bene. Ciao, ci sentiamo. Allora, ciao già, grazie ancora, ciao.